sege-sege di piari asin buta-butan pusi sese-sese di rohaki odoang di ipol lima ta diam di bue-bue diam di tolo-tolo malungunau busa base rohaki sege-sege di piari asin buta-butan kusi sese-sese di rohaki odoagi ipol di mata tek-tek domu sege-sege di piari asin buta-butan pusi sese-sese.